versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, qui le 16:36 primi 41 secondi in diretta dagli studi di Milano di Radio 24. Grazie a chi ci sente anche in podcast. Continuate a scrivere all'indirizzo della trasmissione la versione di Oscar @radio24.it. Vado al punto del giorno che viene da, a dire la verità, proprio da una segnalazione di un ascoltatore del Pordenonese, prima che la vicenda uscisse poi anche sulla stampa a livello nazionale. E, il tema di cui parla il nostro ospite e su cui naturalmente vi invito a chiamare per dirci come la pensate all'800240024, 349-238-6666, gli sms invece, è quello di una proposta dal basso per così dire ingannare l'attesa delle tante riforme che sono in cantiere, che il governo promette, su cui è impegnato. Una di queste è quella del costo del lavoro. Sapete che ha prodotto il taglio del 10% dell'IRAP quest'anno ed è molto difficile che ci si possa aspettare di più l'anno prossimo, vista le difficoltà nella prossima legge di stabilità anche a confermare e o a eventualmente estendere il bonus 80 euro. Quindi dal punto di vista dei costi fissi le cose nazionalmente dopo il 10% di IRAP non cambiano, in meno non cambiano. Avete letto anzi che c'è una smentita molto forte innanzitutto sull'andamento del previsto del gettito sugli immobili quest'anno, perché vi ricordate che abbiamo esordito dicendo che secondo il Tesoro la TASI era del 29% inferiore all'IMU di 2 anni fa. I dati delle aliquote dei primi 5.000 comuni su 8.000, ne mancano ancora 3.000, dicono che per 7 famiglie su 10 la TASI sarà più cara dell'IMU, eh? Quindi tanto per essere chiari. Ma in questo quadro una proposta dal basso destinata a far molto discutere. A me convince molto, ma è una proposta che divide molto e quindi mi aspetto che telefoniate. Qual è questa proposta? Come sapete oggi oltre il 90% del salario nel lavoro dipendente, nel settore privato e praticamente il 98% di quello pubblico è stabilito nei contratti nazionali di lavoro. È stabilito nei contratti nazionali di lavoro e una parte molto bassa è quella di un salario di merito che si è faticato molto a vedersi definanziato solo anno per anno. Stiamo parlando di poco più del 5% in teoria del monte salari, in realtà ne si utilizza ancora una percentuale bassissima perché sono poche le aziende che poi fanno davvero la contrattazione decentrata anche con il salario di produttività. Il sindacato è da sempre molto contrario a cambiare questa cosa, non che sia sfavorevole al salario di produttività, però difende il fatto che il contratto nazionale di settore stabilisca ben oltre il 90% del salario. In più lui dice poi ci sono i premi, il salario di produttività e così via. A me parrebbe che una delle azioni di questi anni è quella di capovolgere questo sistema, cioè secondo me il contratto nazionale di categoria dovrebbe fissare le garanzie generali dei lavoratori dal punto di vista normativo, stabilire un minimo retributivo e invece delegare alla contrattazione aziendale il più del salario. Cioè secondo me nelle aziende, viste le botte di questi anni clamorose di perdita di domanda interna, di andamento a molla della domanda estera per chi esporta, le condizioni terribili della restrizione di credito, della perdita di margine delle imprese, sarebbe meglio stabilire impresa per impresa, sindacati, gestori dell'impresa e soci proprietari dell'impresa insieme, ogni X mesi fare un punto di come vanno le cose, quando le cose vanno male tentare di difendere il lavoro, però a quel punto diminuendo anche i salari, quando le cose vanno bene o benissimo aumentandoli con premi molto significativi. Pensate che in Germania Volkswagen o Audi danno premi annuali in questi ultimi 2 anni che vanno dai 6.000 ai 9.000 euro l'anno a operaio, per essere chiari. Quando le cose vanno bene, quando le cose andavano male, li hanno accettato di tagliarsi con accordi aziendali anche del 25-30% le retribuzioni precedenti a metà degli anni 2000. Allora, di questa proposta, che mi rendo conto divide, diteci come la pensate, Un imprenditore dal basso ha preso carta e penna e l'ha scritta direttamente ai suoi dipendenti, senza aspettare la riforma del contratto, quello che dicono i sindacati e così via, per vedere se i suoi dipendenti la pensavano allo stesso modo. E lo abbiamo invitato qua per spiegarci da dove nasce, qual è la sua esperienza, cosa si aspetta, quali sono le prime reazioni. E con noi ha accettato di parlarne, nei microfoni Radio 24, Angelo Piccini, che è un imprenditore del Pordenonese, nella provincia di Pordenone, fondatore del mobilificio Santa Lucia, S.p.A. ha anche un cantiere navale, quindi è un imprenditore un po' diversificato. Naturalmente il mobilificio, non lo devo dire a voi, il mobile in Italia ha perso margini e domanda incredibile. Allora, buon pomeriggio e grazie ad Angelo Piccinini. Buon pomeriggio, carissimo Giannino, ecco, io devo anche finire di presentarmi. Io sono stato anche il presidente della LIFE del Friuli Venezia Giulia, che 20 anni fa avevamo cominciato a fare la battaglia, persa purtroppo, perché allora c'era ancora un po' di carne attorno all'osso, adesso non ce n'è più, spero che gli imprenditori si sveglino. Io sono stato il presidente, che abbiamo fatto battaglie incredibili, siamo andati in piazza contro, allora era iniziato l'aumento del costo della struttura statuale, comunitale, dico 6 livelli istituzionali in questo paese, una pazzia. Comuni da 350 abitanti, noi abbiamo 2 vallate, la Valcellina e la Val Tramontina, che hanno su 20.000 abitanti hanno 11 municipi per ogni vallata, 22 municipi da mantenere a fronte di 40.000 abitanti. Battaglia anche questa persa. Io alla Seracchiani, in un comizio, quando prima dell'elezione, ho detto: ma avete il coraggio di fare in quella vallata un solo comune e che faccia anche da comunità montana? Avremo 2 comuni anziché 22. Però lo Stato su questo per il momento non ci sente, neanche nell'accorpamento dei comuni. Però andiamo alla sua proposta e ai suoi dipendenti. Allora andiamo alla proposta. Io parto da questo presupposto: che se un'azienda produce ricchezza e distribuisce a vario titolo più ricchezza di quello che produce, non è Angelo Piccinin che dice che l'azienda la chiude. L'azienda chiude perché i numeri non tornano. Certo. E allora io cosa dico? Attenzione, intanto dobbiamo capire cos'è un'azienda. Ecco qua, sono preciso: un'azienda è un insieme di uomini che, servendosi di capannoni, impianti e macchinari, si organizzano per produrre un bene. Sì. Perché ciò possa avvenire è di primaria importanza che ci sia qualcuno disponibile a investire nelle aziende i propri risparmi. Guardate che se non partiamo da questa analisi viene fuori una confusione terribile. Non c'è dubbio. Con la vendita del bene sul mercato, tale insieme di uomini, dal direttore generale all'ultimo che scopa per terra, si prefigge di ottenere ricavi tali da poter coprire una serie di costi che ho indicato e voglio indicare solamente questi: pagare i fornitori, restituire i prestiti delle banche, pagare l'energia perché altrimenti la fabbrica non gira, pagare dei costi endogeni, che è la struttura aziendale, tutta la struttura aziendale, come dicevo, ma anche il camionista che trasporta i mobili, certo, ma anche il rappresentante, ma anche il direttore generale fino all'ultimo che scopa per terra, e costi esogeni, che chiamo, dico, costi esogeni, che è il sistema paese Italia, che mi chiede 3 cose assurde all'azienda Santa Lucia. Sa cosa chiede? Chiede di l'IMU, chiede l'IMU 100.000 euro, 2 aziende che tutto fanno 38.000 metri quadrati, 100.000 euro, e mi fa pagare la tassa sullo strumento, perché capannoni e uffici sono strumenti di lavoro, certo, chiaro? Poi mi chiede l'IRAP. E le fa pagare sui dipendenti. Sui dipendenti e sugli interessi in banca. Certo. Siamo a cose assurde, e me ne fa pagare anche se l'azienda non guadagna. Certo. Attenzione, certo, siamo alla pazzia. Poi mi fa pagare le immondizie, ma la bella cifra di 21.000 euro, caro Giannino, senza che mi porti via un pezzo di carta, perché ci arrangiamo noi a smaltirla. Siamo alla pazzia. Qua ci sono 200.000 euro all'anno che chiede la mia azienda, che pari ha il 30% di quello che io devo restituire alle banche con i mutui che ho fatto, che le banche mi hanno dato una mano perché l'azienda proceda. Allora io passo, poi non ti dico dei costi, dei dividendi dei soci, degli investitori, perché questi sanno che fin quando l'azienda non sarà a posto non avranno una linea. Non avranno una linea di dividendi. Sì, ma poi rischiano anche di rimetterci l'ultima versamento che hanno fatto di denaro contante proprio. Quindi siamo alla pazzia. Allora fermo Giannino il punto. Fino al 2007, prima della crisi, la nostra è stata un'azienda che dal 2000 al 2007 ha raddoppiato le sue vendite. Ha guadagnato a sufficienza per pagare banche, fornitori, dipendenti, tutti pagati, tutto con la massima serenità. E eravamo ripassati, come ti dico, da 10-11 milioni di fatturato a 23. Però raddoppiato. Esatto, 2007. È arrivata la crisi. Quindi diciamo che io dimo perché mi sono deciso a parlare pubblicamente, andare in qualsiasi posto a parlare. Quindi dimostro che l'azienda, quando è stato un periodo durante il quale, quando il mercato c'era, l'azienda ha soddisfatto tutto in modo pieno. Attenzione, cosa è successo dopo il 2007? Che mentre crollavano le vendite, attento Giannino, sul mobile ha perso dal 2007 al 2012 il 48% delle vendite, chiaro? Sì. La nostra azienda fa, che conto, quando noi avevamo investito per fare la fabbrica nuova, avevamo previsto, non abbiamo preso il 20% all'anno dei 5 anni per cui siamo, abbiamo un modesto 5% previsto. Dal 2008 al 2012 il 5% voleva dire vendere 30 milioni, con i quali quindi anche avevamo visto in modo modesto, in modo tranquillo. La verità è che nel 2012 ci siamo trovati, Giannino, ci siamo trovati con 18 milioni di vendite, per un crollo di mercato che non dipende assolutamente dall'azienda, non dipende assolutamente dall'azienda. Ma quindi da 23 a 18, un quarto in buona sostanza del fatturato. Ma qual è stato l'errore che hanno fatto tutti, non solo il mobilizzo Turchia? Tutte le aziende del settore, cioè quel è stato l'errore Giannino, che mentre calavano i ricavi, la rigidità dei costi della struttura interna rimaneva, sia quella esogena sia quella endogena. Esatto, e quella esogena peggio ancora, sì. Perché ci chiedeva di pagare sui metri quadrati di capannone di uffici, una pazzia, indipendentemente se guadagniamo o meno, e in più ci ha fatto pagare l'IRAP sulla quantità di manodopera, sul monte salari e sugli interessi in banca, un'altra pazzia. In più ci vogliono che paghiamo le immondizie quando non ci hanno messo neanche i bussolotti. Allora, adesso noi abbiamo 60 secondi di informazione sulla circolazione stradale e poi andiamo al punto, cioè quello che concretamente ha proposto ai suoi dipendenti, cioè cosa vuol dire in concreto condividere gli andamenti trimestre per trimestre dell'azienda, cosa rischia il lavoratore che vede naturalmente intaccato il suo salario come un attacco a un diritto, per così dire, perché una quota così elevata, stabile della retribuzione è considerata come una conquista storica del sindacato e quindi toccare questo significa toccare un nervo scoperto per molti che dicono noi come facciamo ad andare avanti con le famiglie, naturalmente l'impresa come fa ad andare avanti, chiude, però questo è il punto di fondo. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta alle 16.50, primi 50 secondi. Stiamo parlando con un imprenditore, Angelo Piccinin, del Pordenonese, settore del mobile e non solo quello, che però vi ha rifatto il conto di che cosa sono i costi della sua impresa, sia quando le cose andavano bene fino al 2007, di come potesse soddisfare costi interni ed esterni all'azienda per le richieste pubbliche, quando le cose andavano bene, poi di fronte a un quarto del fatturato che sparisce, i costi restano rigidi, anzi in aumento perché le imposte salivano e naturalmente il costo del lavoro resta così com'è, eccetera eccetera. La domanda è: come si fa, cari lavoratori, a non compartecipare? Allora io intanto, che le lancio la cosa per capire bene che cosa ha proposto ai suoi dipendenti, le do anche delle osservazioni che sono arrivate dai nostri ascoltatori, così ne tiene conto nella sua esposizione. Perché, per esempio, ci dice Antonio da Treviso: se fossi certo del cospicuo premio di produzione in caso poi di arrivo delle vacche grasse in azienda, allora potrei essere d'accordo a vedermi tagliare lo stipendio quando le cose vanno male. Ma se invece mi tagliano solo quando le cose vanno male e poi resto fisso quando l'azienda guadagna, beh, è un altro paio di maniche. Altri ci chiedono: chi ci dice che i bilanci aziendali siano veritieri e davvero in condizioni di esprimere trimestre per trimestre ai lavoratori la condizione reale dell'andamento della società? Come si fa a fidarsi se noi non siamo direttamente nel CDA? È chiaro che nella stragrande maggioranza delle imprese familiari sarebbe inipotizzabile la loro presenza. Ecco, queste due osservazioni, ma intanto a lei spiegare, Angelo, che cosa ha proposto davvero i suoi dipendenti? Allora, Giannino, intanto io, mentre andavo alla pubblicità, ho sentito dire che si parla di diritti acquisiti. Guardate che qua nessuno sa una cosa fondamentale, e mi meraviglio anche che gli uomini di cultura, gli intellettuali, gli economisti non lo dicano. Guardate che per esercitare un diritto deve verificarsi un fattore fondamentale, caro Giannino. Sa qual è? Sai qual è il fattore fondamentale? Che le risorse ci siano! Esatto. Attenzione, perché se si dimentica sta roba qua, questo fatto determinante, si va a litigare, ma si litiga per niente, caro Giannino. Anche se un giudice decide che un diritto acquisito non si tocca, qua sa cosa vale quella sentenza? Da buttarla nel cestino se non ci sono le risorse. Allora, Giannino, questo è il passaggio fondamentale non della deve, mia proposta. Non deve convincere me, ma i lavoratori dipendenti. Ai suoi cosa ha detto? Allora, cosa dico io? Siccome i soci e le banche ci hanno creduto all'azienda, passato questo periodo di crisi, soci e banche, soci hanno messo dei soldi, le banche ci hanno dato fiducia con nuova finanza e lo spostamento dei pagamenti. Benissimo, l'azienda in questo momento, Movision Tuttia, è un'azienda in perfetto equilibrio finanziario, e quindi puoi prendere il cabino. Però Giannino, parliamoci chiaro, sa cosa dico ai miei dipendenti? Sì. Volete che avere l'imprenditore che vi avvisa che se facciamo gli errori fatti dal 2008 in avanti, che abbiamo distribuito più ricchezza di quello che producevamo, e poi ci troviamo fra due anni a chiedere ancora soldi ai soci che non ci daranno più, e alle banche che non ci daranno più niente, o meglio che ci mettiamo attorno a un tavolo con bilancio trimestrale e stabiliamo regole diverse? Esatto. E annulliamo i contratti collettivi, via tutti. Tra l'altro, sa perché io chiedo che siano annullati? Perché sono fatti in periodo di vacche magre, grasse, in condizioni quindi con fattori completamente diversi da quelli attuali. E allora dico, se siamo intelligenti, secondo me, imprenditori, maestranze, ma anche unioni industriali, Confindustria, dobbiamo smettere di blaterare a caso. Dobbiamo dire che si fa. Noi abbiamo un controllo di gestione perfetto, lo abbiamo mensile, noi. Lei lo sa che moltissime imprese, la stragrande maggioranza di quelle familiari, non sono nelle condizioni che ci sta descrivendo. Ma devono mettersi. Bravo, quindi ci vogliono degli obblighi di trasparenza, perché davvero i conti siano chiari poi, per poter dire al lavoratore compartecipiamo e tagliamo se le cose vanno male. Ma più che partecipazione, rendi partecipi se creiamo le condizioni perché l'azienda possa vivere e andare avanti, magari passando i momenti difficili. Poi, perché sa cosa, se lei legge bene, io le ho mandato oggi la lettera, io dico anche che se crediamo che sia transitorio il momento difficile, possiamo fare per non togliere liquidità all'azienda che non ne ha nel momento in cui non guadagna, possiamo anche fare il conto di un credito ai dipendenti che sarà restituito nel momento in cui l'azienda torna a guadagnare. Perfetto, quindi è una proposta, diciamo, complessiva. I suoi dipendenti le hanno già risposto, no? No, adesso lo dico, la stampa purtroppo vuol fare lo spot, no? Sì, beh, è un nostro difetto. Hanno scritto cose solo per dire, Angelo Piccinin vuol tagliare le le retribuzioni. Non voglio tagliare niente, no, io voglio rendere. Vuole delle regole diverse contrattate. Bravo. In maniera tale che il lavoratore e l'impresa capiscano ogni trimestre dove stanno andando, quali sono i margini, come ci si può insieme orizzontare per la parte di remunerazione del lavoro e degli altri fattori della produzione. A me è chiarissimo, però sentiamo rapidissimamente Pier Giorgio da Bologna, lei che dice? Pier Giorgio, sono qui, mi sente Giannino? Rapidissimo, dica. Volevo dire che l'imprenditore in questione, secondo me, non ha ben chiari i ruoli. Significa che l'imprenditore è colui che rischia il proprio capitale e di conseguenza in vacche grasse guadagna tanto, in vacche magre deve andare in tasca e quindi pagare di tasca propria. Ma ho capito, ma così l'azienda chiude poi alla fine, perché i soldi della patrimonializzazione non è infinita. Questo è il ragionamento dell'imprenditore, che come vede i soci ce li hanno rimessi i soldi, Pier Giorgio, capisco la sua osservazione. Va bene, avevamo bisogno di più tempo. Io ringrazio Angelo Piccinin, ci torneremo sopra. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.